si yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Succedono talvolta cose strane alla radio. Io avevo ieri un'ottima intenzione. Volevo fare questa mattina, che è venerdì, una trasmissione che desse piacere ai miei ascoltatori. E quindi, questa vicenda l'hanno seguita a tempo reale tutti quelli che hanno la fortuna di seguirmi attraverso Facebook, dissi a quelli che attendono ogni giorno dopo le 11, dimmi cosa farei domani, dico vabbè, domani voglio fare qualcosa che vi faccia piacere. Pensa che ti ripensa, mi arrivò un messaggio sempre su Facebook di Rosa Fumetto, che è una mia amica, in assoluto la femmina callipigia più rimarchevole degli ultimi secoli, e mi disse: facciamo una trasmissione sulla passione. Benissimo, ecco, invito Rosa Fumetto e parleremo della passione, della seduzione assieme a Rosa Fumetto. Tutti felici, steady ovation dentro il mio pubblico. Quando lei mi dice: non posso, la mattina ho dei problemi, non posso venire domani mattina. E allora ho dovuto pensare a una trasmissione di riserva, che però susciti la stessa passione, che abbia lo stesso potere di dare una mattinata piacevole. E alla fine ho detto: parliamo di cioccolata. Oggi parleremo di cioccolata. Perché parleremo di cioccolata? Perché la cioccolata per me è stata fondamentale. Nacqui Perugino, che è in realtà la città d'Italia dove per un certo periodo, anzi per un lungo periodo, diciamo per tutti i decenni dal dopoguerra fino agli anni 70 circa, la fabbrica della cioccolata è stata al centro dell'economia, dell'immaginario, delle attese, delle speranze, delle sensazioni olfattive di quella città. Allora la fabbrica della cioccolata sta vicino alla stazione Perugia, è flagellata da un vento malandrino, da una sorta di tramontana che arriva a scarnificare le ossa quando è il periodo che soffia forte. Quando soffiava del verso giusto, cioè verso il lago Trasimeno, tutto il profumo della fabbrica della cioccolata arrivava alle mie narici e noi eravamo estasiati. Ricordo che il vero sogno, come poteva essere negli anni 50 andare a lavorare alla Fiat, di tutto la mezzadria, la fascia contadina che stava abbandonando le campagne a quel tempo, era andare a mettere un figlio a lavorare alla Perugina. Quindi spesso venivano persone a chiedere a casa mia se aiutavano i figli a andare a lavorare alla Perugina. Una volta parlai con una signora che aveva la figlia che lavorava alla Perugina e mi raccontava delle cose meravigliose. Dice: pensa che puoi andare in giro e puoi mangiare tutta la cioccolata che vuoi. Passi attraverso dei sacchi di nocciole, metti a manate le nocciole, le prendi, le mangi, fai quello che vuoi. E noi bambini crescevamo in questo sogno della fabbrica del cioccolato. Quindi il cioccolato per noi è stato fondamentale, ma non ha dato le stesse reazioni, le stesse attese che ha dato alle 150 persone che mi hanno scritto da ieri pomeriggio raccontando i loro ricordi legati alla cioccolata. 800240024, oggi vorrei attingere ai vostri ricordi legati alla cioccolata. Quell'uomo era un genio. Lo sapevi che ha inventato un nuovo modo di fare il gelato al cioccolato che resta freddo per ore senza bisogno del freezer? Puoi anche lasciarlo sotto il sole di una giornata calda e non si scioglie. Ma è impossibile. Ma Willy Wonka l'ha fatto. Non passò molto tempo che costruì una vera fabbrica di cioccolato, la più grande della storia, 50 volte più grande di qualunque altra. Raccontagli un po' la storia del principe indiano, quella gli piacerà. Vuoi dire il principe Pondicherry? Infatti io non mi sorpresi quando portai figli a vedere la fabbrica del cioccolato, la riedizione di Tim Burton nel 2005, avevo già visto quello del 71, Willy Wonka, la fabbrica del cioccolato, parlo di quello con Johnny Depp, che racconta questa metafisica avventura di un bambino attraverso alcune prove che lo eleggeranno vincitore del premio di Willy Wonka, questa sorta di elfo che ha la fabbrica del cioccolato e quindi crea il viatico per piccole quotidiane uscite dal mondo di tanti bambini. Attraverso queste tavolette di cioccolata loro ogni giorno hanno il piccolo momento di estasi. Il principe Pondicherry scrisse una lettera al signor Wonka chiedendogli di andare da lui fino in India per costruirgli un colossale palazzo tutto fatto di cioccolato. Avrà 100 stanze e ogni cosa sarà fatta di cioccolato fondente o al latte. Mantenne la promessa I mattoni erano di cioccolato e il cemento che li univa era di cioccolato. Anche le pareti e i soffitti erano fatti di cioccolato. E lo erano anche i tappeti, i quadri e i mobili. È perfetto, da ogni punto di vista. Sì, ma non durerà molto. È meglio che lo mangi subito. Oh, sciocchezze! Non mangerò il mio palazzo. Io intendo viverci. Io ricordo che avevo due sogni da esaudire con il mio primo stipendio quando cominciai a lavorare. Uno era quello di comprarmi una motocicletta, che non esaudì, ma ve lo racconterò in un'altra fase il perché. E un altro quello di mangiare tutta la cioccolata che volevo, perché venivo da una famiglia che giustamente mi ha educato alla parsimonia. Quindi la cioccolata andava mangiata nei momenti giusti, nelle occasioni giuste, nella quantità giusta. E bisognava sempre mangiarci il pane assieme, mangiaci il pane, non so perché. Quindi improvvisamente con il primo stipendio mi riempì il mio primo monolocale di Scapolo, quindi luogo di scoperte fantasmagoriche e di grandi tavolette di cioccolata nocciolata. E ricordo che per questo esaurii tutta la mia lussuria latente nei confronti del cioccolato. Oggi non sono un grande amatore di cioccolata. Sì, ho grandi ricordi legati al desiderio per la cioccolata, ma per me personalmente, ma rappresenterò un'eccezione, non ha mai rappresentato quello che invece mi sembra rappresentare nel ricordo di tantissime persone che mi hanno scritto. Ve ne leggo qualcuna di quelle che mi hanno mandato già dei messaggi, e chi ne avesse da raccontare all'800 24 00 24 vi stanno aspettando. Gabriella mi dice: il mio ricordo più vivo, talmente vivo che riesco ancora a sentirne il sapore, è quello della rosetta fresca, tipico panino romano, con pezzettoni di cioccolato fondente. Il cioccolato faceva parte dei cosiddetti viveri di conforto. Mio padre era un militare e non so chi lo producesse, ma era ottimo. È il cioccolato militare di cui parlammo nel ricordo della figlia del generale soltanto qualche giorno fa. Maria Antonietta dice: da un baule proveniente dal Venezuela si sprigionava un odore magico, caffè verde da brustolire e piccole gomme da masticare, cioccolata. C'era cioccolata in tavoletta, cioccolata incartata a bonbon e altri cioccolatini. Poi Diana: il cioccolato fino a pochi anni fa era un desiderio che non riusciva a soddisfare del tutto. Tavoletta quintali, al latte con nocciole intere, ma la voglia rimaneva bruciante. Ora la sostanza mi lascia abbastanza fredda. Forse finalmente, una certa volta, devo aver esagerato fino a stare male e lo guardo con vero distacco. Ma al di là di questo, il cioccolato sembra ispirare non soltanto ricordi legati alla fanciullezza, alla privazione o all'eccesso di cioccolata, al desiderio di cioccolata, ma anche ricordi legati all'età adulta. Uno dei grandi oggetti gratificatori per chi ha dei momenti di sconforto è il cioccolato sgranocchiato davanti al televisore. Dico sgranocchiato perché esistono anche qui due scuole di pensiero, due visioni della vita. È una metafisica che si divide a metà, che divide a metà l'umanità. Coloro che considerano il cioccolato qualcosa da sgranocchiare, qualcosa di duro, consistente, da aggredire e da consumare a morsi, lasciando il segno dei denti appoggiato alla tavoletta. Per altri è una scuola che considero degenerata, che ha la sua massima rappresentazione ideologica serie di film di Nanni Moretti, che dagli anni 70 classificò una sorta di gioventù autoriflessiva, disincantata, legata a valori che già in sé sembravano consunti nel momento in cui venivano proclamati, che si accontentava di un surrogato erotico appunto aggredendo delle oniriche visioni di grandi contenitori di un surrogato di cioccolata, che è la Nutella, si può dire che ormai è un marchio che è entrato nella storia, quindi non si fa pubblicità indebita. Nanni Moretti nei suoi film mette al centro appunto una sorta di consolatorio desiderio di ritorno alla fanciullezza, l'intingersi in questa sorta di liquefatta cioccolata, che poi non è cioccolata fino in fondo ma è crema di nocciole. Non avete mai bevuto della cioccolata calda fatta con una ricetta di 2000 anni fa? Grazie, però no. Luke? Molto amaro. È il cioccolato che preferisci. E che dovrà attendere per 5 settimane ancora. Quaresima. Grazie. Dobbiamo avviarci. Piacere di averla conosciuta, vieni. Piacere mio. Quanto valgono quei cosi al peperoncino? 4,50 la scatola. Può metterci anche un nastro? Mm-hmm. Così posso far finta che è un regalo di mio marito. Senz'altro. E questi sono per suo marito. Tronchetti grezzi di cacao del Guatemala, per risvegliare la passione. È ovvio che lei non ha mai conosciuto mio marito. È ovvio che lei non ha mai provato questi. Qui si apre un'altra vicenda, si gira un'altra pagina legata al cioccolato. Il cioccolato non soltanto è un compensatore di affettività, non soltanto è un grande acceleratore di ricordo, non soltanto è un scafandro per immergersi nella propria fanciullezza perduta, ma fino a un certo punto semplicemente accantonata in uno dei recessi del nostro immaginario, ma è anche un grande suscitatore di passione. Al cioccolato è legata una sorta di leggendaria, ma forse anche reale, capacità afrodisiaca. La cioccolata è sempre stata legata alla passione, al peccato, alla concupiscenza. Sogni cioccolateschi stanno al vertice di ogni lussuria multisensoriale, legata non soltanto all'espressione sessuale, ma anche a una sorta di voracità, di appagamento del gusto. Tutto questo con grande poesia e con grande acume è stato condensato nel film del 2000 Chocolat, che la protagonista è Juliette Binoche e Johnny Depp, sempre, che anche Willy Wonka, quindi ha una sua vocazione legata al cioccolato. Racconta in un tranquillo paesino francese, molto puritano, molto legato alla regola, alla dottrina. Sotto Quaresima arriva una conturbante Binoche vestita da cappuccetto rosso, con una figlia ugualmente vestita da cappuccetto rosso, quindi già in sé hanno qualcosa legato a una malcelata e non confessata lussuria, e aprono una fabbrica di cioccolato, l'aprono proprio sotto Quaresima, quindi creano un grande scandalo. C'era un sindaco bacchettone frustrato che non voleva assolutamente questo accostamento della lussuriosa cioccolata al momento di giusta mortificazione dell'anno liturgico. Ma in realtà la Binoche, con questa sua cioccolata molteplice, personalizzata, per ogni persona aveva la cioccolata giusta, riesce a sciogliere i nodi e i legami di queste persone in questo paese, che in realtà erano tutti dei grandi repressi. La dà le mogli, la dà le vecchie brontolone, la dà i mariti, e lentamente il paese segue il filo di questo abbandono al cioccolato, come se fosse una sorta di viatico per uscire dalla rigidità dei loro costumi, che li rendeva molto poco felici. Qualcuno di voi ha visto il nuovo negozio in fondo alla piazza? Oh, la cioccolateria, sì. È vergognoso, non trovate? Che impudenza quella donna. Aprire una cioccolateria giusto durante la Quaresima. Una gran sfacciataggine. Mi si stringe il cuore per quella sua povera figlioletta illegittima. Buona giornata. Questo è il sindaco bacchettone che vorrebbe mantenere su di sé il duplice potere di gestore della cosa pubblica, di anche ministro della spiritualità del paese, comanda i preti, comanda tutti, e lui vorrebbe cacciare questa sorta di contaminante e conturbante per lui. Alla fine poi non vi dico come finisce il film, ma si capirà che ne era segretamente innamorato di questa donna, vorrebbe metterle addosso la lettera scarlatta, considerarla quasi una demoniaca inquinatrice dei buoni sentimenti del paese. Ma evidentemente qualcosa del genere è accaduto, perché ieri, leggendo l'annuncio che avevo fatto su Facebook del fatto che oggi avrei parlato di cioccolata, una giovane affascinante ragazza inglese che si chiama Paola è venuta questa mattina nella nostra radio cosparsa di un unguento al cioccolato, e ce l'ho qui accanto a me, ne sto sentendo l'effluvio. Buongiorno Paola. Buongiorno. Ecco, dove hai trovato? Io ho in mano un contenitore marrone spray, dove non reggo bene la marca, ma praticamente è una sorta di crema per il corpo al cioccolato? Sì, sì, sì, ho comprato a Londra. Ah, e ce l'avevi già a casa, quindi. E mi hai fatto questo regalo questa mattina di offrirti in cioccolatata? Sì, sì, sì. Cioè... Ma dove si mette? Sì, sì, no, ho avuto modo di constatare. Sei completamente cosparsa di crema al cioccolato? Ah, quasi, sì, sì. Ma hai usato già altre volte questo espediente? No, però sono tornata a Londra per Natale, e dopo Natale c'erano i saldi. Ho permesso di comprare un altro sapore per un'amica, però e l'amica una che volta sapore visto voleva? Questo ho dovuto comprare a buon prezzo anche. Ma l'amica che sapore ha scelto? Non lo so, in italiano, pomegranate. Ah, è una melagrana, penso, una cosa del genere, sì. È un po' strano, perché non credo che... non ho presente quale sia l'odore, ma ho presente quale sia l'immaginario che suscita il frutto, quindi immagino che abbia avuto un buon effetto. Ecco, tu adesso che sei cosparsa di cioccolato, alle 11 di mattina uscirai, sì, per via del corso. Dopo faccio la doccia e uso questo. Ah, lo farai sempre adesso? Hai già avuto qualche risposta di questa tua applicazione? Il mio coinquilino ha detto qualcosa. Il tuo inquilino ti ha detto qualcosa? Beh, poi non vogliamo sapere quale sarà l'esito. Quindi questa è una prova concreta e reale del sortilegio, del potere che ha il cioccolato. Se una ragazza che viene dalla gelida Albione sente il bisogno di confezionarsi da cioccolatino per venirci a dare testimonianza dell'effetto che fa il cioccolato, evidentemente per qualcuno questo effetto è percepibile. Maria Rosa, buongiorno. Buongiorno. Si spenga la radio. Mi allontano, va bene lo stesso. No, va bene, è importante, sì. Niente, io volevo ringraziarvi per avermi richiamato in questa mattinata nebbiosa, uggiosa, a ricordi dolci. Non sono più giovanissima, la vostra trasmissione mi ha ricordato quando da bambina andavo a scuola e... La goduria, la merenda di metà mattina era il panino fresco, croccante, la michetta profumata col formaggino di surrogato di cioccolato alla nocciola. E poi alla sera, quando si tornava sempre nella nebbia, al freddo, mia mamma ci preparava una tazza di cioccolata che non ha niente a che vedere con la cioccolata che ci servono nei bar, ma era un'alchimia stupenda di... cacao amaro, zucchero, farina e quale altro ingrediente amoroso ci mettesse dentro nostra madre, ma comunque uno dei ricordi più dolci, ecco. E poi la cioccolata ha segnato altre tappe nella sua vita, a parte questo ricordo legato alla madre? Altre tappe, vabbè, poi col tempo il cioccolato è diventato uso comune, ricordo... Le uova di cioccolata delle mie figlie che erano talmente tante che poi venivano fuse, messe negli stampini, cioccolatini fatti con i bambini piccoli. Io ricordo invece un ricordo tristissimo dell'uova di cioccolato che non si finiva mai, poi veniva spezzettato, messo in dei contenitori e si diceva questo per le colazioni, ma era già estate, ancora c'erano questi pezzetti ammuffiti di cioccolato. Sì, diventava bianco, certo, naturalmente. Poi ognuno attribuisce al cioccolato i suoi valori personali. 80024 0024, raccontateci un po' la cioccolata della vostra vita. Che cosa ci vede? Un accidente di niente. Coraggio, è un gioco. Che cosa vede? Vedo una vecchia brontolona troppo stanca per i giochetti. Oh, ho la cosa giusta per lei. La sua cannella sembra rancida. Non è cannella, è un tipo speciale di peperoncino. Peperoncino nella cioccolata calda. Uh-huh. Le darà la carica. Ha il sapore di... non lo so. Sicura che non ci ha messo del liquore? Uh-huh. Qualcosa di meglio. Forse dovrebbe darla a mia figlia per sciogliere quel suo carattere gelido. Questa è una anziana brontolona che va anche lei dalla Binoche, Vian, appunto nel film, alla fine superando l'ostacolo che veniva considerato il ricettacolo di tutti gli istinti peggiori, la cioccolateria di questa signora, e comincia lentamente a addolcirsi mangiando cioccolata. Ecco, vorrei capire quanti delle persone che mi ascoltano hanno ancora questo bisogno insopprimibile nel loro quotidiano di mangiare cioccolata. Oggi se ne vende di tutte le forme, tutte le maniere, c'è una fantasia nella confezione cioccolatiera che la mia generazione nemmeno si sognava. Noi eravamo fermi al numero fisso dei cioccolatini che erano contemplati nella confezione regalo, e quindi c'era la banana che non mangiava mai nessuno, c'era quello con le tre nocciole che piaceva a tutti, poi c'erano i cremini, c'erano una serie di cioccolatini. Beh, oggi in quale momento della giornata è collocato il vostro consumo di cioccolata? Quale valore date alla cioccolata che mangiate? Perché quando si nomina la cioccolata tutti fanno magari, potendo, non potessi permettere. E perché nessuno oggi si può più permettere di mangiare cioccolata? Ogni volta dico a me stesso che è l'ultima, ma poi io sento una zaffata di cioccolata calda o di quei cosi con la mole. Conchiglie di cioccolato così semplici, così piccole, così innocenti. Ho pensato, un solo piccolo assaggio non può fare alcun male. Ma ho scoperto che erano riempite di un ricco peccato. Morbido, burroso ripieno. E si squaglia, che Dio mi perdoni, ti si squaglia lentamente sulla lingua e ti tortura di piacere. Naturalmente, il cioccolato che somministra con sapienza personalizzandolo, la Binoche, alle sue vicine di casa, ha dei poteri salvifici anche dei loro rapporti coniugali. C'è una signora piuttosto trascurata dal marito che porta i mistici cioccolatini a casa, il marito li mangia. C'è una scena meravigliosa di lei intenta nel più umile dei lavori donneschi, nell'ultimo gradino dell'abiezione della donna trasformata in pulitrice di case, che ramazza il gabinetto inginocchiata con lo scopettone. Il marito, aver mangiato il cioccolatino, entra, la vede prona in quell'opera, ma improvvisamente si accorge di avere una donna accanto e la possiede in quel momento fatidico. Beh, visto che la cioccolata in sé ha anche rappresentato una cultura piuttosto articolata, piuttosto diversa, io ho parlato dei miei ricordi perugini, ma Perugia non è l'unica città che ha il primato della cioccolata. Sparpagliata e contesa questa sorta di attività in varie città d'Italia. Ho al telefono, la presento soltanto, poi ne parleremo più ampiamente con lei nel seguito della trasmissione, Anna Rita Merli. Anna Rita Merli, buongiorno. Buongiorno. Lei innanzitutto è residente a Torino, quindi rappresenta l'altro polo della cioccolateria italiana, mi sembra, no? Sì, certo, però in tutta l'Italia c'è un cioccolato buonissimo, sia industriale sia artigianale. Ecco, lei è responsabile della Compagnia del Cioccolato. Ma responsabile è un termine persino troppo pomposo e serioso. Non si vuol prendere questa responsabilità? No, non è che non me la voglio prendere. Teme di essere messa a rogo come la Binoche? Infatti. Torino è una città molto austera, la conosco bene. Sì, quindi... sì, ma io non sono torinese, quindi posso essere un po' più alle grotte. Molto austera verso i non torinesi soprattutto, infatti. Sì, molto, molto. Melog 2.0. Cioccolato fondente, la base del nostro lavoro. Qui lo chiamiamo il nero. Il cacao, uno dei cibi con più significati nella storia umana. Per gli aztechi era la bevanda degli dei, per i maya moneta, per i nobili francesi la cura del buon umore. Per le monache del 600 il peccato. Giuravano di astenersi dai piaceri della carne e dal cioccolato. Che cosa vedete qui? Cioccolatini a stampo. Il guscio è di nero al 70%. Il ripieno pralinato di nocciole. Secondo me c'è anche un goccio di rum. Io vedo un uomo al bar, beve il caffè. Ha problemi al lavoro, guai a casa, rate, piccoli sogni infranti. Li vede, ne prende uno e lo mangia. In un istante il tempo sembra fermarsi. È un piccolo momento d'estasi. Signori, se siete venuti qui per fare cioccolatini, potete anche andarvene. Qui si fanno piccoli momenti di estasi. Questa lezione di cioccolato, un film diretto da Claudio Cupellini nel 2007, cioè più che un film è un product placement trasformato in film, è un grande marchettone, ma giustamente lecito ai termini di legge, di una nota fabbrica di cioccolato in cui all'interno c'è questa scuola per cioccolatieri. Neri Marco Re spiega i segreti del cioccolato. Mi scrivono di tutto in questo momento, devo dire che la fantasia creativa di coloro che attingono la cioccolata a ricordi più anche indecenti mi sta sorprendendo veramente. Soprattutto mi fa tenerezza dove è andato un ascoltatore che mi dice: Davide, dice, accidenti Gianluca, ho le emorroidi e tu mi parli di cioccolata, sig. Ossella invece mi dice: il cioccolato è forse una protesi sentimentale. Coloro che hanno mancanza d'affetto sfogano la loro mancanza di coccole femminili o maschili in una tavoletta di cacao. Ma mi sembra una visione un po' logorata, un po' vecchia. Mangiamo la cioccolata perché abbiamo bisogno d'affetto. Non lo so, non ho voluto chiamare il solito psicologo che mi spieghi perché si mangia cioccolata. Si mangia perché si è golosi, perché è buona, perché è dolce, perché ci conforta, ci gratifica, ci scalda l'anima, ci scalda i sensi, ci fa venire tanti bei brufoli. Buongiorno, Michele. Buongiorno, sono Michele della provincia di Foggia. A me il cioccolato mi riporta agli anni 60, quando mia madre, per addobbare l'albero di Natale, usava dei personaggi fatti di cioccolato. Sì, mi ricordo, dei terribili Babbo Natale con la stagnola colorata. Bravo, bravo, bravo. Vuoti all'interno. Solo che poi non si arrivava neanche a Natale, molto prima, finivano molto prima. Ecco, lei pensa che noi invece eravamo talmente educati in maniera rigida che mia nonna li ritirava fuori dallo scatolone delle palle di Natale l'anno dopo, che naturalmente ormai erano dei cadaveri ammuffiti, perché non si potevano mangiare, era quasi un sacrilegio, come nel paese della Binoche, che non si poteva toccare la cioccolata. Forse erano anche di surrogato, ma per me erano così buoni. Sì, erano vuoti, uno cercava di mangiarli nascosto lasciando la stagnola che mantenesse la forma del Babbino Natale, della campanella, della renna, scavandolo all'interno, ma erano stratagemmi molto facilmente scopribili. E mia madre qualcuno li conservava anche per l'anno dopo. Eh sì, esattamente. Erano buoni anche così. Erano buoni anche così, non ce n'erano. Guardi, si mangiava tutto. Dunque, visto che lei ha ricordi degli anni 60, se la ricorda lei, io non me la ricordo bene, non era cioccolata, era un surrogato, era buonissima, ma faceva male, non ce la compravano mai. I droghieri vendevano una specie di rettangolo, metà color nocciola e metà color più chiaro, anche rosellino, che era una cremina al cioccolato che nulla aveva tipo di cioccolato. Tipo cremino, nella sì. Carta stagnola. Bravo, esattamente. Bravo, esattamente, se la ricordo. Triangolo, sì. Io non lo assaggiavo. Era un premio che ci dava la mamma quando si andava a scuola. Si tagliava fette, si tagliava. Madonna, che ricordi. Beh, la lascio stare, se no in questo momento la lacrima potrebbe soffocare il suo ricordo. Alessandra. Alessandra da Frosinone. Senta, mi è piaciuto il passaggio tra i diritti e i doveri dei parlamentari e il vizio della cioccolata, che serve sempre ad addolcire la bocca, no? Sì, vabbè, il bello è un palinsesto, è un palinsesto variegato, mica possiamo tenere tutto il giorno. Così mi piace, appunto per questo lo seguo. Ma piace sempre quando c'è perché un'alternanza. Mi sollecita parecchi ricordi, desideri. Comunque il mio volevo raccontare in un attimo, ero talmente golosa di cioccolata che avevo una zia anziana in famiglia che le conservava in un suo armadio chiuso, tutte in scatolate perché lei aveva molti regali di queste scatole di cioccolatini. Ah, conservava i cioccolatini? Sì. Come, allora io non potevo resistere all'idea che stessero lì ad invecchiare e ad attarlare. Ed allora un giorno aprì le scatole, più di una, presi delle cioccolatine e poi riconfezionai perfettamente le scatole, non so come, quando, non ricordo. E quando naturalmente dopo tanto tempo fu scoperto questo fatto, pensi un po' in famiglia. Sì, guardi, in tutte le famiglie c'è una parente di una certa età, zio, nonna che sia, che la necrofilia della cioccolata, cioè che tiene queste confezioni eternamente nei cassetti, che camminano da sole, diventano bianche, è un peccato, e poi le offre magari centellinandole dopo sei mesi che ce l'ha nel cassetto, esatto. E sono terrificanti. Io invece di farle offrire le papaie, però poi naturalmente ebbi anche una punizione, anche sproporzionata. Cosa le fece? Ferri roventi, cose del genere? No, mio papà mi lasciò, siccome mio papà era mi viziava e mi comprava tutto, stetti tanto tempo senza poter assaggiare un dolcino. Pensi un po' come si creano traumi ai fanciulli. Tremenda, altro che un rosario intero dopo una confessione. Beh, vedo che però ancora le dà allegria, le dà piacere questa rottura alla regola e questa sorta di peccato furtivo consumato in fanciullezza. Spero che le abbia ispirato anche l'età adulta, abbia continuato a rubare dolcezze e appropriarsi delle dolcezze che altri tengono nascoste e delle quali sono avari. Grazie. Ritorniamo a Anna Rita Merli, con cui ci eravamo interrotte all'inizio della prima parte. Posso dire un mio piccolo ricordo infantile? Certo, deve. Siamo? Allora, a casa mia ricevevano tantissime scatole di cioccolatini, anche dalla Svizzera, dove ci sono i cioccolatini nudi come tradizione, cioè non incartati. Mm. Scatole su scatole che mia madre... Che naturalmente ispirano molta meno lussuria. Diciamo la verità, e mia madre li nascondeva anche lei per offrirli poi durante i grandi tè pomeridiani alle amiche. Mm. Allora io sono riuscita ad aprire tutte queste scatole nell'armadio, una volta che approfittando di una distrazione, e non ho fatto altro che metterci, erano tantissime, ci ho messo un cartellino in tutte dentro, un biglietto: mangiateli pure, ma sappiate che li ho leccati tutti. E quando mia madre aprì la scatola per offrirle alle amiche, momenti svenne. Beh, fu una cosa veramente sottile questa. Sì. Come fingere di tossire sulla fetta dolce di un amico in modo che lui la lasci e poi ce la mangiamo noi. Ci sono queste... Non voglio addentrarmi, no, perché poi vengo ripreso. No, ci comprendiamo. Allora, Anna Rita, io vedo che ci sia un legame, un nesso molto, molto stretto fra la femminilità e il cioccolato. Sì, gli uomini ha confessato quel signore che mangiava i babbo natalini dell'albero di Natale furtivamente, ma le donne, come pure la Binoche lo dimostra, sono quasi delle sacerdotesse del cioccolato. Sì, questa è una cosa, adesso faccio un po' la sapiente, ha un'origine... L'ho chiamata per questo, sennò chiamavo mia zia, chiaro. No, ha un'origine antica questa cosa, perché la cioccolata zuccherata, così come la conosciamo noi, l'hanno ideata gli spagnoli dopo la conquista del Messico nel 500. Sì, è il frutto della Controriforma, perché in realtà gli aztechi se lo mangiavano salato. Sì, non conoscevano lo zucchero, non ce l'avevano e non gli piaceva neanche lo zucchero. E quindi prima di arrivare in Europa ci è impiegato un po' di tempo, a quell'epoca i trasporti erano lunghi, e un certo gesuita, padre Acosta, andò appunto nel Messico e lì scoprì che gli spagnoli mangiavano, bevevano, anzi era ancora una bevanda soprattutto, questa cioccolata, e scrive: è scossa loca, è facile, il nostro spagnolo, uh-huh. È una cosa da pazzi da quanto la desiderano, ma soprattutto le donne spagnole, se muere un Paolo Negro cioccolate. Sì, quando una donna spagnola dice me muero, non vuol dire esattamente che sta tirando le cuoia, ma ecco. È all'apice del suo piacere. E di lì in poi c'è sempre stato questo legame molto, molto intenso tra la donna e la cioccolata. Se c'è tempo vi racconto ancora un piccolo episodio, sì. Sempre del Messico. Lei guardi, io essendo un tossico, sì. di Margarita, sì. Lei sa quanto in questo momento sto fibrillando pensando che il grande serpente azteco che è alla base dell'agave, che è il vegetale a cui si estrae il tequila, è lo stesso ispiratore del cioccolato. Sì, è il simbolo del Messico, infatti. Allora, siamo a San Cristóbal Las Casas, nel Chiapas, che è una zona nota per altri motivi al giorno d'oggi. Uh-huh. A quell'epoca c'era tantissimo cioccolato. Sempre le donne spagnole andavano alla messa, era obbligatorio a quell'epoca, andavano alla messa nella cattedrale, ma dicevano che non reggevano tutta una messa se non venivano le loro cameriere a portargli un po' di cioccolata. Quindi c'era tutto un andirivieni tremendo durante questa messa, e quindi il vescovo disse: no, basta, è proibito bere la cioccolata durante la messa, state attente. Allora loro andarono vicino dai francescani, perché il vescovo era domenicano, c'era rivalità tra i due ordini. Certo. Francescani disse: ma sì, venite da noi, bevete pure. Allora il vescovo fece una norma, disse: no, vietate in tutte le chiese. Soprattutto vietato andare dai frati e farsi offrire cioccolata, perché non si sa come va a finire. Melog 2.0. Ricoperta di cioccolata, Michelle ha recentemente posato per un servizio sul settimanale A. Ti ho vista tutta spalmata di cioccolata. Hai visto? Fantastico. È il mio sogno. Ma ho letto anche un'affermazione, cioè che vorresti fare l'amore in una vasca piena di cioccolata. Scusa, tu no? Ma tra cioccolato... chi ama il cioccolato non è meraviglioso, ma l'amore voglio fare, proprio l'amore. Quindi... Per il cioccolato se il parla. Sesso, secondo te? No, non c'è da scegliere, tutte e due va benissimo. Trovo che non ci sia più mortificatore immagine per ispirare alla castità, alla temperanza dei costumi e alla fuga da ogni piacere della carne che immaginare l'amore con la Hunziker dentro una vasca di cioccolato. Ma non perché non meriti la ragazza, perché tutto ciò che è raffinatezza, che è ricercatezza, che è piacere sottile, che è qualcosa da mormorare in penombra, quando diventa slogan, quando diventa una rappresentazione televisiva, quando diventa un uso comune, pubblicizzato, volgarizzato, quando diventa popolare, diventa orribile e diventa assolutamente privo di quella molla, di quel sapore che lo rendeva unico. Quindi la televisione che si appropria attraverso un personaggio di grande visibilità, di sicuro talento, ma che fa parte dei desideri plastificati, tali come sono rappresentati dal grande collettore di tutte le banalizzazioni, tutte le normalizzazioni di ogni complessità, perde il suo senso. Non so se Fiorella è d'accordo. Fiorella, buongiorno. Buongiorno a lei. Io volevo raccontare un mio episodio sulla cioccolata. Quando ero piccola... Ma lei farebbe mai l'amore dentro la cioccolata? Cioè, sono rimasto abbastanza colpito da quello che dice la Hunziker. No. Trovo che ci sia una sorta di contrasto che non rende la cosa in sé appetibile. C'è qualcosa di scivoloso, fastidio. Due ambiti diversi, vero? Certo, certo. Il piacere della gola... viene un pochino, come posso dire, è completamente diverso rispetto a fare l'amore. Non riesco a spiegarmi, le chiedo scusa, sono un agitato incredibile. Perché agitata? Perché parliamo di qualcosa che va oltre il piacere della gola? No, perché è la prima volta che parlo con una radio e volevo raccontare... Beh, io mica sono una radio, sono un essere umano io. Certo, certo. Le volevo raccontare questo episodio. Sì, parliamo della lavatrice. Sì, di quando ero piccola e mia madre ogni tanto acquistava questa cioccolata. Allora c'erano quelle barre piuttosto grandi, da mezzo chilo all'incirca. Mamma mia. Avvolte in quella carta azzurra. Mm. E stanca del fatto che io continuavo a portare via questa cioccolata, l'anno scorso, nella lavatrice, e fece un giorno il bucato dimenticandosi della cioccolata che aveva messo. Oh. E a questo punto era stranamente tutto marrone quando uscì. Sì, sì, sì. Ma ne rimase ancora di questa cioccolata, perché erano delle tavolette veramente alte. Mm. Era, se posso dire la marca, erano quelle della ICAM. Non so, mi sfugge. Sì, comunque alla fine spento questa lavatrice, tolto la biancheria, era rimasto della cioccolata. Io... Sì, ma i calzini rimanevano in piedi da soli una volta crostificati con la cioccolata? Credo che fossero delle lenzuola e comunque erano marroncino, da lì si accorse. Beh, è inquietante vedere delle lenzuola striate di marrone, guarda, sì, un'immagine bruttissima. Infatti io presi quella cioccolata che era rimasta, la lavai e la mangiai. Sì, non sapeva di sapone, no? Sì, ma l'ho lavata bene. Beh, certo. E poi l'ho mangiata. Talmente era la mia golosità per questa cioccolata. E poi un altro ricordo bellissimo che ha accennato prima era proprio quello di quella cioccolata che vendevano con quel colore rosa e marroncino, che la vendevano in quella carta trasparente. Sì, che poi era, seppi in età adulta che era un surrogato e poco avesse di cioccolata. Grazie, signora Maurizio, buongiorno. Spenga l'ectoplasma che parla a casa sua, cioè abbassi la radio. Sì, fatto. Volevo dirle che un'ora, lasciamo perdere. Lei aveva un padre cioccolataio. Mio padre era il rappresentante, posso dirlo, sì. Ma si dica. Quindi girava con la valigetta dei campionari? Sì, lui girava con la valigetta, ma a quei tempi erano anche, avevano il deposito. Ah, quindi c'era a casa il deposito della cioccolata? Sì, il deposito della cioccolata, della... Ma come facevate a sopravvivere? Dottor Nicoletti, tanto l'ha detto anche lei, ormai non è più pubblicità, Nutella, la Nutella che veniva venduta in... Quindi aveva il bunker della Nutella dentro casa? Avevamo il bunker. Di voi immagino che prendevate ditate di questo materiale e richiudevate le confezioni, quindi che se la comprava l'aveva diminuita nel volume, a meno che non rimboccaste con altri materiali, non lo so. Non ho capito, scusa. Cosa succedeva a questa Nutella che suo padre avrebbe dovuto vendere? Col caldo, questi contenitori da un chilo, si quasi esplodeva, no? Cioè la Nutella si gonfiava? Si esplodeva, quindi traboccava fuori. Ma forse avrebbe dovuto tenerla al fresco? Per utili all'azienda, dovevamo ripulire i contenitori. Ah, ecco. Quindi voi, non mi dia problemi adesso, non voglio pensare che mettano dei bambini a leccare l'eccedenza di Nutella che poi dovevano vendere. Additate. Vivamo con le ditate. Ma non faceva prima suo padre a mettere in un locale fresco? Stiamo parlando di 35 anni fa. Ah, quindi non si faceva molto caso a queste cose. Infatti, non è che ci fossero grandi controlli. Vabbè, quindi lei, diciamo, ha aiutato il menage familiare contribuendo a recuperare l'esubero da questi vasettoni di cioccolata liquida, perché lasciandoli suo padre al sole, non so perché, cosa ci tenesse il frigorifero, non voglio saperlo, eccedevano rispetto alla confezione. Mario, buongiorno. Buongiorno. 50 anni fa sua madre barattava il formaggio in cambio di cioccolata. Sì, ma il formaggio, io vengo dalla Sardegna, barattava il formaggio in cambio di cioccolata, che erano a triangoli, triangolini. E anche il formaggio poi facevano a fette triangolari? No, vabbè, il formaggio era tondo, vabbè. Mm. Questa povera mamma, perché poi eravamo 10 figli, e cercava di darcelo piano piano, no? A volte se lo dimenticava, che ne so, però col tempo, sta cioccolata, che poi non so se era un surrogato, si alterava come sapore e a me non mi piaceva più, non riuscivo a mandarla giù. E mentre i fratelli la continuavano a mangiare io la rifiutavo. Vabbè, erano di bocca buona i fratelli, si vede. Vabbè, ma pure io c'avevo tanto fame, non andava giù, insomma, questa roba qua. E allora? E niente, quindi la rifiutava, la dava ai miei fratelli, lei però non voleva che la dava ai miei fratelli perché cercava sempre di risparmiarla per dargli un'altra volta, no? Niente, era questo la... Grazie Mario. Anna Rita Melli, è venuto fuori però un quadro dalle nostre testimonianze, poi prese casualmente da quelle che sono arrivate, molto diverso dal luogo comune sulla cioccolata. Qui invece le immagini di gioia, di opulenza, di raffinatezza, qua vengono immagini di micragna legate alla necessità di avere comunque la cioccolata e di conservarla il più tempo possibile. Orrore, la cioccolata va mangiata subito. Eh sì, beh, parla bene lei che sta a Torino e se ne trova ad ogni piè sospinto. No, ma noi parliamo di un'Italia che si è molto, molto evoluta rispetto a quello che era pure alcune sue caratteristiche. La cioccolata nella famiglia media italiana, anche se parliamo di boom economico, era un genere di lusso e quindi veniva centellinata, non c'era questa abbondanza. E ricordo io negli anni 80, il primo stipendio, il mio sogno era: adesso mi compro tutta la cioccolata che voglio. Confesso questo mio segreto, è così. E quanta riuscì a mangiarne? Ma non lo so, parecchia, poi basta, finì tutto lì. Bravissimo. Allora, vediamo un po' di concludere dando qualche lettura dalla sua esperienza rispetto a questo mondo della cioccolata. Le dico una cosa che io ho in forte disprezzo: le saghe, le feste, le commemorazioni, le rappresentazioni, i festival legati alla cioccolata. Una volta tentai di andare alla festa della cioccolata a Perugia, ma più nella vita frequenterò una cosa del genere, è una cosa orribile. Però oggi con affari enormi e servono per vendere più cioccolata. Quindi la cioccolata è diventata un grande affare. Sì, anche perché il consumo pro capite in Italia da 2 kg a testa, appunto essendo pro capite, è passato a 4 kg in pochi anni. Ora, leviamo almeno i neonati che non possono mangiare la cioccolata, questo vuol dire che è aumentato moltissimo. È anche aumentata l'offerta, oggi un'infinità di cioccolate di tutti i tipi, cioccolate col peperoncino, con lo zenzero, col garofano, col sale, con tutto. Non esistevano queste cose? No, assolutamente, proprio perché il consumo era più limitato, quindi adesso si diversifica anche l'offerta. Comunque poi se ne esporta anche parecchia, ma è un genere che va molto qui da noi. Ma lei pensi che in Svizzera, ogni svizzero ne consuma 12 kg, siamo solo a 4. Quindi abbiamo davanti a noi. Non voglio adesso entrare nello specifico di Nicoletta Carbone, ma tutta questa cioccolata non può dar qualche piccolo problema, no? Ma assolutamente no, guardi, quasi ogni giorno viene fuori che qualche università, magari un po' sperduta, con la provincia americana o la Nuova Zelanda, l'Australia, così, fa qualche ricerca e porta i risultati, la cioccolata fa bene per cose incredibili, fa bene per il mal di testa, cura i disturbi del cuore, cura la schizofrenia, le cose più impensabili. No, la cioccolata fa soltanto molte bene. Volte questi studi sono, diciamo, ben accompagnati da chi la produce, chi la vende, quindi non darei sempre così tanta fiducia, ma questa è la mia personale e istintiva sfiducia in queste improvvise scoperte legata a elementi di comune uso. Diciamo, forse in conclusione, che la cioccolata è comunque legata a una grande piacevolezza, è comunque legata a un grande piacere. Poche sostanze, così generalmente, in maniera così diffusa e così immediatamente, suscitano nell'immaginario di ognuno un senso di nostalgia, di piacevolezza, di apertura, di desiderio, di disponibilità. E questa è forse una rarità che dava senso e rendeva meritoria anche questa mattinata di divagazione sui ricordi cioccolateschi. Adesso ci sentiamo veramente la prossima settimana. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.